Allora, benvenuti a tutti e a tutte, buongiorno, mezz'ora di ritardo e soprattutto così, un colpo di scena. Dovrei presentare questa giornata di studio, che è la prima ufficiale del Centro di Documentazione Territoriale, che insomma, ha sede qui, dell'apertura dell'archivio storico della Viscosa, della CISA SNIA Viscosa, che abbiamo sistemato in questi locali. E a presentare questa giornata doveva esserci Michele Colucci, una voce autorevole dal punto di vista storico, un nostro compagno insomma, che ha seguito in questi 15 anni e più tutto il percorso che ci ha portato all'apertura dell'archivio, soltanto che sta male, purtroppo insomma, non può essere qui questa mattina e proverò io a fare questa introduzione, anche se non sono né uno storico, né, insomma, un scienziato della materia. E semplicemente ho fatto parte di quella storia, nella storia che ha potuto così portare oggi così alla conoscenza di tutti l'archivio e quindi ricostruire pian piano quella che è un'importante pagina insomma, storica di questa città. Appunto, di cosa parliamo? Parliamo di un'area dell'ex SNIA, della CISA Viscosa, qui fuori Porta Maggiore, Casilina Prenestina, le due direttrici insomma, ferroviarie che hanno reso possibile la nascita di questo polo industriale importantissimo, forse la più grande come estensione, poi ce lo diranno insomma, gli studiosi di Roma e quindi insomma, rappresentare che anche Roma è stata una città industriale a suo modo e la storia di un abbandono poi dagli anni 50 in poi di quest'area per la chiusura dello stabilimento, per lo spostamento della produzione, non della società. E quello che rientra poi in una storia dello sviluppo della città, dal punto di vista fondiario, della rendita e anche delle mire, da questo punto di vista, ovvero della trasformazione dell'area in polo industriale, insomma, così commerciale, residenziale, come è avvenuto per tante parti di Roma. E quindi saltiamo dagli anni 20 agli anni 50, ovvero il periodo della fondazione, dell'apertura della fabbrica alla chiusura, agli anni 90, ovvero quando si è venuto a conoscenza in maniera insomma, così abbastanza anche occasionale, comunque con fuoriuscite dal punto di vista insomma, delle informazioni ufficiali, che c'era in corso una grande speculazione edilizia che riguardava quest'area, ovvero la volontà di costruire un centro commerciale e quant'altro nella parte soprattutto produttiva della fabbrica, quindi quella verso Largo Preneste, Portonaccio, Prenestina. E da lì una grande mobilitazione degli abitanti per sventare questo tentativo che è durata insomma, un quinquennio almeno di battaglie. E bloccare questa insomma, speculazione. Da lì è nato tutto un percorso cioè innanzitutto è nato l'occupazione dell'intera area, qui dove siamo, fino appunto a Via di Portonaccio e comprendendo 12 ettari di terreno. E con questa occupazione, con le mobilitazioni, con le pressioni, con insomma, le prese di posizione anche dei politici dell'amministrazione comunale di allora, si è bloccata questa operazione e il risultato che possiamo vedere tutti affacciandosi insomma, lì su quello che ora chiamiamo il Belvedere, è un scheletro di cemento armato che era quello che insomma è fisicamente quello che resta del tentativo speculativo, ovvero il centro commerciale di 3, 4 piani, 5, non ricordo bene, una, insomma, abbastanza imponente, e un lago che si è formato attraverso la rottura per costruire, insomma, i piani sottostanti, i parcheggi e le fondamenta, la rottura di una falda acquifera, che si tratta di un vero e proprio fiume che prima, insomma, dell'urbanizzazione esisteva, che poi è stato, diciamo, sotterrato, e un fiume che si collega alla Niene. E quindi un lago sorgivo, ed è l'attualità questa, stiamo parlando di questo. Mentre per quanto riguarda la fabbrica, insomma, quello che ne è stato negli ultimi 20 anni, da una parte ci sono stati tanti tentativi, diversi tentativi di mettere mano con profitto all'area, appunto, nella costruzione prima di un centro commerciale, poi c'era il progetto dell'università progettata con un costo 4 volte diciamo il costo di mercato che il costruttore avrebbe venduto all'università, anche quello bloccato, grazie all'intelligenza di chi non voleva far sperperare denaro pubblico. Le piscine dei mondiali, qualcuno se lo ricorderà, è stato uno scandalo che ha riguardato tutta la città di Roma, tanti interventi, ma il primo che è stato denunciato è proprio su quest'area. Qui a fianco al lago si voleva costruire un immenso centro sportivo con piscina olimpionica, con un cantiere che doveva essere aperto ad aprile per essere concluso a giugno. Questi erano i tempi dell'operazione, e che avrebbe previsto anche un albergo e quante altre cose, insomma, anche lì centro commerciale e sportivo, diciamolo così. E anche quello bloccato, e poi fino ad arrivare, insomma, ai giorni nostri, a un anno, insomma, che di questo, dall'ultima scia della Giunta Alemanno, con un bando, quello dei relitti urbani, che a macchia di leopardo sulla città dava il permesso ai proprietari fondiari di aree industriali dismesse di poter convertire quelle aree in commerciale e residenziale. Per quanto riguarda questa nostra SNIA, questo nostro patrimonio, qui si prevedevano 4 grattacieli da 100 metri. Ecco, questo era un po' l'operazione, insomma, la scomparsa del lago e la cementificazione intera dell'area, che sono, se non sbaglio, 9 ettari dei 12, perché il restante, diciamo, la restante area è questa, il parco, il centro sociale, per fortuna preservati e liberati e restituiti alla cittadinanza. In questo percorso di 20 anni quello che è successo è che, nel momento in cui si è scesi in quella che era un paesaggio bellissimo, la fabbrica, quando si è occupata l'area, era ferma nel tempo, c'era un orologio sul viale, insomma, principale, che segnava, penso, l'ultima ora, insomma, scoccata del momento, che era ancora aperta, ed era un orologio che scandiva il tempo degli operai, che era collegato sicuramente alla sirena, insomma, un aspetto poetico interessante, dove comunque erano ancora presenti alcuni macchinari, la centrale elettrica e quant'altro. Insomma, un paesaggio molto affascinante che ci riportava indietro nel tempo, ma soprattutto custodiva un tesoro, che era appunto l'archivio. L'archivio che è stato, stiamo parlando, insomma, dell'archivio del personale, che le schede che dai primi anni, dalla costruzione della fabbrica, degli operai edili che sono stati assunti per costruire la fabbrica, dai progettisti fino ad arrivare, insomma, agli ultimi anni di chi si occupava dei reparti chimici e tessili. E questo tesoro era rimasto lì, perché la società, nel momento in cui ha chiuso i battenti, si è spostata la produzione, si è portata via le carte che a loro interessavano. Evidentemente la storia degli operai non interessava, non era qualcosa che meritava un trasloco, uno spazio altrove, e mentre insomma, e quindi è stata abbandonata nello stesso luogo dove veniva depositata, nell'ufficio archivio protocollo. Insomma, questo possiamo immaginare che insomma, non è che è stato accantonato da qualche parte, è rimasto lì sugli scaffali. Questo ritrovamento, insomma, in quell'occasione ha fatto sì che l'archivio è arrivato fino ad oggi, perché poco dopo, dopo qualche anno, l'intero, insomma, così insomma, dell'ufficio è andato a fuoco, quindi non avremmo avuto più nulla di tutto ciò. Ed è l'importanza, insomma, di un'azione diretta degli abitanti che hanno riconosciuto in quelle carte che la società che ha continuato la produzione altrove, che è diventato un colosso della chimica, la SNIA e via dicendo, aveva considerato mondezza, e invece chi illegalmente era entrato in quell'area per bloccare un'azione illegale fatta da un privato e anche dall'amministrazione, perché quello che c'è da dire è che tutta la costruzione del centro commerciale era seguita a una truffa, insomma, a una falsificazione del piano regolatore. Quindi il privato aveva pagato qualcuno, un funzionario, per far sì che poteva risultare autorizzata la concessione a cambiare la destinazione d'uso su un'area che era prevista a verde e comunque era vincolata fortemente da un vincolo naturalistico, quindi non si poteva costruire assolutamente, invece questo era stato reso possibile finché ce ne sei accorti e gli abitanti l'hanno denunciato attraverso questa truffa. Quindi vediamo che ci sono, insomma, questa storia possiamo dire che comincia con una scelta politica di preservare la propria qualità della vita, di riconoscersi insomma, nella difesa di un patrimonio che si voleva pubblico, comune, a utilizzo di tutti, e in questa storia c'è un'altra storia che è quella del riconoscimento di un bene che ci riguarda, che può ricostruire le nostre vite e riconoscersi in questo, perché attraverso insomma, le scale dell'archivio si ricostruisce la storia di un territorio, si riconosce la storia di tante famiglie che continuano a abitare in questo quartiere, si ricostruisce la storia anche di questa città e non solo, anche di una migrazione che poi spiegheranno insomma, gli storici che è avvenuta sia all'interno insomma, della regione, ma anche insomma, da altre regioni anche molto lontane, ovvero di operai, ma soprattutto operaie che sono venute ad abitare qui per lavorarci e sono anche rimaste qui la maggior parte di queste persone. Quindi l'importanza di portare ad oggi a conoscenza di tutti questo archivio e partire con un momento così forte che si lega appunto una scelta di costruire un bene comune dentro il territorio, dentro la città, a disposizione del quartiere, perché poi quello che ci possiamo sicuramente rivendicare è che in questi 20 anni dove è stato salvato l'archivio, custodito in maniera maniacale l'archivista oggi che in qualche modo ha preso la responsabilità scientifica dell'archivio. E ha definito la nostra diciamo, passione rispetto a questo archivio per come l'abbiamo trattato e abbiamo aspettato tanto perché gli volevamo dare una sede nel quartiere e anche questa è stata una scommessa, non portare lontano diciamo, questo archivio dentro qualche sede ufficiale della sovrintendenza, ma dargli una sede istituzionale, una sede insomma istituzionale intesa riconosciuta da tutti noi, una sede ufficiale, ecco questo, ma all'interno del quartiere. E qui la Casa del Parco, ovvero questo edificio. E questo edificio che anche questa è stata una conquista, faceva parte dei vari dei vari edifici della fabbrica sociale, sotto la produzione e qua sopra, dove c'è il parco, c'era la fabbrica sociale, ovvero quella dedicata alla vita fuori dal tempo lavorativo degli operai, dove c'era la mensa, il convitto, l'asilo nido e tante altre funzioni della fabbrica totale, che era la Snia Viscosa. Questo si dice che era l'asilo. E non ne siamo troppo sicuri, però così diciamo, i tecnici del decimo dipartimento, ovvero quello che si occupa insomma, dei parchi e via dicendo, l'ha identificato. Dovremmo insomma, meglio studiarlo. Comunque era sicuramente uno degli edifici, ce ne erano altri cinque uguali qui, uno a fianco qui, altri tre nelle filiere, insomma, tra gli alberi, tra i pini, se vedete insomma c'è una regolarità, e lì immaginate che c'erano altri capannoni come questo, poi forse sulla cartina che si fa vedere si capisce meglio. E questo l'abbiamo voluto lasciare in piedi, perché nel progetto insomma, appunto del decimo dipartimento era previsto l'abbattimento per rendere tutto a parco. Ed è stata anche questa una volontà forte di custodire, diciamo, una memoria storica architettonica e renderla anche il cuore del parco, quindi la casa del parco, dove abbiamo previsto appunto che sarebbe venuto l'archivio, dove ci sarebbero state delle attività sociali come dedicate insomma, all'infanzia, alla ludoteca, ma anche un centro di documentazione, qualcosa che avrebbe in qualche modo non solo accumulato un sapere insomma, del passato, ma anche del presente. E questo è quello che stiamo realizzando. Dopo tanti anni, non tanto insomma, per una nostra lentezza che sicuramente c'è, ma prima di poter entrare qui sono passati almeno 12 anni, insomma, da quando l'abbiamo progettato insieme al comune, appalti, subappalti, rinunce d'inizio lavoro e poi al lavoro finito un bene che rimaneva chiuso. E a luglio di 2 anni fa ci siamo rotti di questa insomma, situazione, abbiamo aperto l'area ed oggi l'autogestiamo insieme a tante individualità e associazioni del quartiere all'interno di una forma aperta che è il forum territoriale del Parco delle Energie, che si riunisce qui ogni primo mercoledì del mese ed è una cadenza che dobbiamo rispettare. Comunque ogni primo mercoledì del mese ci si riunisce per pianificare da una parte le attività che si svolgono nell'intero parco e nel quadrato e non solo, ma soprattutto oggi per difendere ulteriormente, insomma, dall'ennesimo tentativo di speculazione edilizia l'intera area e realizzare finalmente un parco insomma, naturalistico in questo caso che includa il lago, perché è un bene che abbiamo scoperto importantissimo, raro se non eccezionale all'interno della città di Roma e soprattutto non far costruire altro cemento, non aumentare il nostro disagio abitativo sull'area, dare il verde al quartiere Casalbertone che ne è completamente privo e chiudo dicendo insomma, che questa è la battaglia di oggi che si lega a tante storie, a storie che hanno visto protagonisti tante persone, tanti operai e operaie. E che come vedremo, insomma, si sono difese il proprio salario, hanno difeso la propria dignità, hanno difeso la propria qualità della vita e hanno portato avanti, a partire dalla fabbrica, molte lotte anche durante il periodo della Resistenza, così come nel dopoguerra, per conquistare tutti i diritti che in qualche modo oggi vediamo, insomma, attaccati. E quindi è una storia importante che non ha mai cessato, insomma, di produrre da una parte conflitto, ma anche una proposta rispetto alla città stessa. Ed oggi si chiama Parco Subito, Lago per Tutti. E domani c'è un importante appuntamento che rinnova queste parole, che le aggiorna perché pur essendo stato cancellato il bando che dava autorizzazione al proprietario di costruire in variante, in deroga al piano regolatore che prevede semplicemente e sostanzialmente verde e servizi per il quartiere, dava la possibilità di costruire tanto cemento per il residenziale, e tutto questo non è assolutamente confermato, perché dobbiamo far sì che il comune non abbia assolutamente possibilità neanche di pensare di concedere una variante, una deroga al piano regolatore che abbiamo conquistato con tanti anni di battaglia e di lotta, e per far sì che si cancelli il parco o si cementifichi l'intera area e si aumenti, diciamo, la densità abitativa, piuttosto che invece darci il verde necessario per la nostra sopravvivenza in questi quartieri soffocati, come sapete, insomma, dal traffico, dall'inquinamento dell'aria e quant'altro. Quindi lascio la parola a Carmelo Severino con l'invito di partecipare domani e seguire anche i prossimi appuntamenti dell'archivio, e nonché insomma seguire e partecipare, perché si tratta di noi, alle mobilitazioni che seguiranno, perché questo centro di documentazione non è semplicemente qualcosa che rimane attaccato all'Accademia o alla ricostruzione storica, ma vuole vivere per forza di cose nell'attualità e portarla avanti con una memoria storica ben precisa, come vedremo. Quindi Carmelo spiegherà come i relatori di oggi. Grazie Marco. A me tocca il compito di introdurre alle giornate di studio, che appunto sono state organizzate questo sabato e sabato prossimo, avendo come tema il quartiere Pigneto Prenestino negli anni 30 e le sue industrie. Il programma delle due giornate consiste in una introduzione, appunto, da parte mia, che mi presento, comunque io sono uno storico urbano, mi sono occupato, ho ricostruito la storia del quartiere fuori Porta Maggiore da 1870 a oggi, utilizzando tutto materiale d'archivio, il che in genere per le ferie è un modo di procedere abbastanza innovativo, perché la ricerca archivistica comporta lavoro e fatica. Dicevo, le due giornate, quindi dopo un quadro di una mia introduzione in cui parlerò del quadro territoriale da un punto di vista socio-economico, ci saranno delle monografie specifiche. La professoressa Grazia Pagnotta, che è docente qui alla mia sinistra, docente di storia dell'ambiente e del territorio alla Terza Università, parlerà con un'inversione rispetto al programma oggi dell'Istituto Farmaceutico Serono e sabato prossimo invece dell'azienda Tramvaria, cosa che avrebbe dovuto fare oggi, però c'è questa inversione. Poi a seguire oggi ci saranno Alessandra, la storica Alessandra Conte, antropologo, no? Niso Tomolillo, che parleranno. Loro fanno parte proprio del nucleo storico del centro sociale che si è occupato da sempre della SNIA, parleranno delle vicende della Viscosa. Invece sabato prossimo si continuerà appunto con questo racconto sulle singole industrie, per cui io farò un intervento sul mulino di Pantanella. La professoressa Pagnotto, ha già detto, parlerà dell'ATAC, e invece un altro storico, Lucio Villani, parlerà della Breda a Torre Gaia, che comunque non è proprio nel territorio, però è lungo la Casilina e comunque rientra, essendo una grande industria che negli anni 30 ha avuto un ruolo importante per la città di Roma. Per quello che riguarda quindi, ecco, la mia introduzione, io avevo preparato una serie di slide perché per accompagnare il discorso anche a delle immagini, per rendere anche meno monotono, forse più attraente quello che io dicevo. Però vedo che è difficile organizzarlo perché purtroppo logisticamente il computer è lontano da dove sono io, quindi cercherò di rappresentare la situazione in maniera più chiara possibile. Vi invito a fare uno sforzo di immaginazione, visto che credo che un po' tutti voi abitate in questo territorio, quindi lo conoscete. Il territorio di cui si parlerà è quello relativo all'area fuori Porta Maggiore, compreso tra la ferrovia Roma-Sulmona, quindi diciamo la Prenestina, la via Casilina, quindi la ferrovia Roma-Latina, fino all'acqua Bulicante. Tutto questo territorio, che ha una forma grossomodo triangolare, praticamente a metà degli anni 30, questo era interessante fare vedere le immagini, era un territorio che urbanizzato a macchia di leopardo, nel senso che c'erano molte zone ancora rurali, ma no, è perché io dovrei accompagnare, indicare, insomma, non è possibile. Comunque, questo territorio è formato da una prima parte che è fuori Porta Maggiore sino alla circonvallazione Casilina, ed è stata la parte che si è urbanizzata subito dopo l'Unità d'Italia fino al 1900. Poi l'altra restante, fra la circonvallazione Casilina e via dell'acqua Bulicante, che invece ha avuto una sua urbanizzazione a partire dagli anni 25-30. Negli anni di cui noi ci occupiamo, praticamente la situazione industriale era già ben conformata, perché accanto ai nuclei di prima industrializzazione, che sono il mulino Pantanella, che sta fuori Porta Maggiore a partire dalla fine dell'Ottocento, ci stava l'Istituto Farmaceutico Serono, di cui parlerà la professoressa Pagnotta, che si insedia nell'area, diciamo, attualmente fra la Casilina e Piazza del Pigneto e Via del Pigneto, a partire dal 1910, che negli anni 30 era già diventata una delle più importanti industrie farmaceutiche, non solo di Roma ma anche d'Italia, che poi da lì a qualche anno diventerà una multinazionale importantissima. Ed era una società, una fabbrica che impegnava già manodopera femminile. Poi su questo territorio c'era la presenza molto forte dei lavoratori legati ai pubblici servizi, perché c'era lo scalo merci, quindi i lavoratori della ferrovia che lavoravano, perché siamo vicini a Termini e alla scalo merci di San Lorenzo. E poi c'erano i ferrotranvieri, perché il primo nucleo dell'ATAC si impiantò alla fine del 1880 fra Via del Pigneto e Piazza dell'Aquila. Praticamente era inizialmente la società romana Tranvie Omnibus, che poi durante il periodo di Nathan è stata municipalizzata e diventata l'ATAC. Negli anni in cui parliamo è l'ATAG, perché è l'azienda tranviaria del governatorato, che ha non solo il nucleo storico appunto fuori Porta Maggiore, però ha anche tutta l'area che sta subito fuori dopo la Prenestina, sulla sinistra, praticamente fra la Prenestina e la ferrovia, c'è un grosso stabilimento che ha acquisito ed era la vecchia officina meccanica di Tabanelli. Anche questa è diventata area del governatorato. In più ci stava, insediata nel 22-23, la Viscosa. La Viscosa che, diciamo, si insedia fra via di Portonaccio, via Prenestina e l'area della ferrovia, ed è una grande industria, perché tutto il territorio appunto è un luogo di situazioni produttive, piccole e medie industrie, alcune l'ho detto, c'era tutta una serie di altre attività legate all'indotto rispetto a queste iniziali, però con l'insediamento della viscosa si ha il fatto nuovo dell'insediamento di una grande industria, perché la viscosa che produceva seta artificiale inizia già con un insediamento di oltre 2.000 lavoratori e presto verranno portati a 3.000. Quello che è importante è che per la prima volta, cioè già l'aveva fatto la Serono, ma in maniera massiccia lo farà la viscosa, impiegherà manodopera femminile. Quasi il 40%, cioè a un certo punto si è arrivato ad avere 1.000 operaie sui 3.000 che lavoravano alla viscosa. Accanto a questa, quindi adesso se voi vi immaginate quindi questa mappa, quindi a partire da Porta Maggiore verso Via dell'Acqua Bollicante, quindi sulla Prenestina abbiamo, come dicevo, l'ATAG e poi la viscosa. Sulla Casilina abbiamo la Pantanella e abbiamo la Serono, e poi qua e là, a Via del Pigneto, ma in tante altre vie, ci sono tutta una serie di industrie piccole e medie che nel 1939, quando verrà pubblicato l'Atlante delle industrie, il fascismo pubblicizzerà molto, perché smentisce quell'immagine di Roma, città parassitaria, città non industriale. Invece Roma aveva avuto un suo apparato industriale legato molto ai pubblici servizi, ma ce l'aveva. E una forte componente di questo apparato produttivo stava proprio qui nell'area del Pigneto Prenestino. Qual era la situazione abitativa di tutto questo quadrante? L'area era andata urbanizzandosi per iniziative parziali, cioè mentre il piano del 1909, quello di Nathan, considerava il piano regolatore, che a quei tempi non era come adesso estesa a tutto il territorio comunale, ma interessava soltanto le aree di espansione, praticamente il piano regolatore del 9 si fermava alla circonvallazione casilina con la previsione di intensivi. Invece, siccome esistevano una trentina di tenute di 10, 15, 20 mila metri quadri nel suburbio romano fuori Porta Maggiore, molti di questi proprietari, laddove esistevano le condizioni erano la proprietà dell'area ovviamente, però anche l'accessibilità e quindi la possibilità di fare poi risolvere il problema delle fognature, potevano frazionare e vendere. Così è avvenuto per iniziative dei singoli. Inizialmente lungo la via Prenestina una serie di lottizzazioni in maniera densa, la parte che adesso è il triangolo edificato fra via del Pigneto, via L'Aquila e la circonvallazione casilina, che apparteneva in buona parte ai fratelli Belardi, che iniziano proprio a partire dal 1910 a frazionare, a vendere. Continuano poi negli anni 20 tutta un'altra serie di proprietari, sono tutti terreni che hanno 10-15 mila metri quadri, non sono grandi, però l'operazione avviene con il frazionamento in piccoli lotti, lotti di 500, 300, 600 metri quadri, che il lottista compra e poi in autocostruzione spesso, perché appunto sul territorio abitavano o avevano necessità di abitare coloro che in questi luoghi della produzione lavoravano. Ho dimenticato di dire che alla fine dell'Ottocento, nell'area subito al di là di Ponte Casilino, quindi fuori dall'area, però direttamente connessa con la nostra, c'era lo stabilimento della Nettezza Urbana, che occupava tantissimi netturbini. Infatti alcune di queste lottizzazioni interne all'area di cui ci stiamo occupando, quella per esempio fra via del Pigneto e la via Casilina, e sono abitate da netturbini, cioè loro compravano con un atto notarile legittimamente un lotto e poi potendo costruivano. Allora lì ci sono situazioni decisamente accettabili, cioè di palazzini, villini di due piani, ancora oggi li vediamo, ci sono anche piacevoli. Però la stragrande maggioranza erano diciamo in una situazione di autoproduzione che assomigliavano un pochino alle bidonville, perché spesso sono costruite con materiali precari, e che però la cosa che colpisce è che non erano disoccupate, abitati da disoccupato, da persone marginali, eccetera, persone che invece, pur essendo inserito nel mercato del lavoro, avevano bassi redditi e quindi si accontentavano di abitare in questi luoghi che erano vicini al posto dove si lavorava, però non c'erano le condizioni diciamo igienico-sanitarie eccellenti, perché le strade erano pezzi di strade che partivano o dalla Prenestina verso la lottizzazione, che aveva consentito appunto la realizzazione di queste case, però non erano in rete, non portavano da nessuna parte. La stessa cosa, molte lottizzazioni che hanno come origine la via del Pigneto. Nel mio libro io ne ho affrontato tantissime, cioè c'era la lottizzazione del Gennaio, cioè dal nome dei proprietari, e ce ne sono tante che però tutte quante non vanno in rete. Sono situazioni marginali che soltanto a partire dagli anni 20-25 cominceranno un pochino a essere riqualificate, perché si creerà anche un movimento di lotta per avere un recupero del territorio a condizioni di vita più normali, e anche perché venisse dotato di servizi, eccetera. Quindi, se la situazione agli inizi degli anni 20, quindi agli inizi del fascismo, era appunto quello che ho rappresentato, la situazione cambia decisamente nel momento in cui il fascismo si consolida e quindi va anche alla ricerca del consenso. Tanto c'è stata la normalizzazione sul luogo di lavoro, perché dopo le violenze fasciste che hanno colpito moltissimo soprattutto i nuclei che venivano considerati covidi sovversivi, che erano le aziende, lo stabilimento dei tranvieri e quello dei ferrovieri, perché erano considerati appunto il covo dei socialisti, e fra i primi atti che poi fa il regime che si sta affermando è quello di licenziare i più facinorosi. La stessa cosa avverrà alla Viscosa, che dopo le prime lotte degli anni 23-24 anche lì si procederà alla normalizzazione. Però ecco, verso la fine degli anni 20, a seguito di un'iniziativa che passa col nome di case convenzionate, cioè c'è dalla fine della Prima Guerra Mondiale, per sopperire al problema della mancanza di case, quindi l'affollamento e quindi per l'affollamento delle abitazioni, si era proceduto con il blocco dei fitti, che era stato prorogato a più riprese. Alla fine del 29, il governatorato vuole risolvere un po' questo problema, vuole sbloccare il blocco dei fitti, allora fa un accordo con la grande proprietà, i costruttori, perché costruissero dei fabbricati di edilizia civile, il governatorato dava un contributo di 1.000 lire a vano, purché il costruttore si impegnasse a dare le case in affitto a certe categorie di inquilini, che rientrano tutto ovviamente nei quelli graditi dal fascismo, che sono i dipendenti comunali, ma anche gli ex combattenti, i mutilati e via. Cioè tutta una serie, famiglie numerose, ma tutta una serie di categorie che comunque sono. E al Prenestino, che era in quel momento era una delle aree in cui era più forte la domanda di abitazione, ci sono ben due iniziative che cominciano a cambiare già il panorama urbano poi dell'area. Una è quella cosiddetta di Fonseca, per capire dove c'è via Mastacciuccioli, dove poi verrà girato il film di Anna Magnani, eccetera. Ecco, quei palazzi lì sono stati costruiti nell'ambito dell'operazione case convenzionate. Quindi sono edifici di 6-7 piani con tutta una serie di accorgimenti per per dare la casa appunto in un'operazione di consenso che il regime fa, in alternativa e quasi in contrapposizione poi invece alla classe operaia. Un altro nucleo importante di edilizia di questo tipo, delle case convenzionate, avviene sulla via Prenestina, diciamo all'altezza di via Romanello da Forlì, dove adesso c'è anche il Giulio Cesare. Lì un altro industriale, si chiama Parisi, attraverso due sue società, costruisce 5 palazzine di questo tipo. Complessivamente, nel giro, queste sono operazioni che sono realizzate in pochissimo tempo, perché fra le imposizioni che il regime chiede ai costruttori è quello di realizzarle in tempi stretti. Nel giro di un anno vengono realizzate. Diciamo, come a consuntivo dell'operazione, verranno ad abitare 5.200 abitanti, che sono tanti. 5.000, perché diciamo, con questa operazione il fascismo fa un'iniziativa che accontenta i proprietari delle aree, perché su quelle aree si costruisce, accontenta i costruttori perché comunque si fanno un'immagine anche promozionale, accontenta anche gli abitanti, i nuovi abitanti, i nuovi fascisti, quelli che vivranno in questi comprensori della nuova Roma. E l'immagine cambia, perché rispetto alle case basse, spesso appunto costituite da aree di degrado, in cui la commissione fra rurale e urbano non è molto chiara, eccetera, queste palazzine tirate su si presentano anche da un punto di vista promozionale in maniera positiva. C'erano state alcune cose sull'area comunque importanti. Questo prima del fascismo è stato ai tempi di Nathan, viene realizzata subito dopo Porta Maggiore, sull'area fra via Prenestina e la ferrovia, la cosiddetta Casa dei Ferrovieri, che anche lì quella è stata una cosa molto importante, perché si sono insediati 250 famiglie per un totale di 1.000 persone, e in quegli anni le Ferrovie dello Stato, che erano state nazionalizzate da poco, rappresentano il fiore della classe operaia, perché pur stando in una società ormai pubblica, venivano da società private che appunto erano state nazionalizzate ed avevano un forte spirito di corpo, e questo ha contribuito molto nel quartiere operaio in formazione, come quello che era quello del Prenestino, ha contribuito molto, diciamo, alla nascita di questo quartiere. E poi c'erano state delle iniziative in cooperativa, una per tutte, sempre legata al mondo delle ferrovie, la cooperativa Termini, che negli anni 20, dal 22 al 30, praticamente realizza nell'area fra la Casilina e la via del Pigneto, comprando l'area dalla Villa Serventi, una città giardino, con un impegno preciso di realizzare oltre 125 villini bifamiliari, ma con la volontà che ognuno avesse un giardino, quindi case individuali. Infatti loro hanno dovuto poi lottare per ottenere, perché diciamo, la cooperativa Termini riesce a lottizzare questa sua lottizzazione, ottenendo dei mutui agevolati dal Ministero, perché appunto erano tutti ferrovieri, e hanno dovuto lottare per imporre il loro modo di abitare, che era quello della casa giardino, perché secondo certi parametri la casa popolare avrebbe dovuto avere più livelli, ma con un'unica scala che collegava i vari livelli. Invece questi villini, che sono accoppiati, ogni villino che ha piano terra e primo piano ha una scala interna. Infatti, quando nel 1925 ci sarà una variante al piano regolatore, praticamente il nuovo disegno urbano che ne esce fuori salva semplicemente questa lottizzazione Termini, mentre tutte le altre lottizzazioni che vi dicevo, che erano state lottizzazioni di fortuna, praticamente vengono quasi tutte demolite. Quindi se questo è il quadro del territorio da un punto di vista delle sue industrie e dei suoi abitanti, volevo dire alcune cose per quello che riguarda proprio invece la componente sociale, che prima del fascismo, ma negli anni fra il 20, fra il 19 e il 22-23, era molto forte e vedeva la presenza della Chiesa, la parrocchia di Sant'Elena, che si era fatto promotrice insieme a tutta un'altra serie di associazioni di base, tra cui appunto i soci della cooperativa Termini, i socialisti dell'ATAC, cioè tutta una serie di associazioni che si erano costituiti per lottare e pretendere dal comune, la storia è sempre la stessa, pretendere dal comune una qualità della vita migliore, perché queste case non avevano servizi pubblici, non c'erano le scuole, non c'erano fognature, le strade appunto erano pezzi di strade mal collegate fra di loro. Tutto questo fervore che in qualche maniera ottiene delle cose a metà degli anni 20, poi con diciamo, la normalizzazione fascista un po' si perde, perché cambiano gli attori, la composizione del quartiere si modifica un po', perché la presenza simultanea di questi 5.000 nuovi abitanti che diciamo, sono graditi un po' al regime, messi quasi in contrapposizione invece con gli operai che lavoravano nel quartiere, crea una situazione in cui poi dal 26 il regime, anche da un punto di vista formale, diventa un regime, cioè i partiti politici vengono eliminati, molte conquiste che i lavoratori avevano ottenuto sul luogo di lavoro vengono eliminati e si procederà con una politica assistenziale, perché la Viscosa, ma anche altre aziende, grosse aziende, faranno una politica paternalistica rivolta nei confronti dei loro operai, concedendo una serie di assistenza, perché come si diceva qui c'è l'asilo, c'era il convitto, c'era la mensa, c'era la possibilità per l'occasione, con un accordo con i tranvieri, c'era una linea tranviaria che portava qui sul luogo di lavoro, eccetera. E poi negli anni 30 inizia anche a realizzarsi la politica scolastica del regime, che praticamente con la scuola Giulio Cesare e altre di questo tipo e dintorno comincia un pochino a contrapporsi perché fino a quel momento diciamo l'educazione scolastica era affidata soprattutto alla rete assistenziale della Chiesa. Vi ricordo le suore del Prato, le suore della Misericordia, che si sono insediate qui nell'area prenestina nel 1927, anche in previsione del concordato, per portare assistenza a questi quartieri che appunto mancavano di tanti servizi. Non so se vogliamo vedere forse queste immagini, perché io avevo raccolto appunto le immagini, c'è cioè un'immagine del quartiere al 1924, quando ancora non ci sono questi grossi interventi, e si vede dai vuoti che ci sono che appunto l'edificazione è a macchia di leopardo. Ci sono grandi aree in cui ancora c'è la conduzione agricola, ci sono i prati tavoletti in cui questa grossa azienda agricola produceva proprio per il mercato ortofrutticolo romano, accanto appunto a queste case basse. Poi c'è un'altra carta che è del 1944-45, però siccome durante gli anni della guerra non è che si è costruito, ci fa vedere la situazione del territorio alla fine degli anni 30. Quindi già si vede la differenza, e anche dalle tipologie dell'edificato vedrete che qualche cosa è avvenuta. E poi ci sono delle immagini relative alle industrie e alle case convenzionate, un po' alle cose che ho detto. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire, forse può essere utile anche per il dibattito successivo, è che nel 1931 viene fatto il nuovo piano regolatore di Roma, che per l'area che riguarda il Prenestino è importante, perché praticamente secondo diciamo la volontà del regime, lo sviluppo di Roma doveva avvenire verso est, organizzato su un grande viale che non è altro che via del Pigneto raddrizzata in quello che oggi è via dei Condottieri, via fino a piazza Malatesta, che andava verso l'Agro, e su quello doveva essere organizzato tutto quanto il quartiere. Quindi quest'area doveva diventare il polo, il centro di sviluppo di Roma, cosa che voi sapete che è stato poi abbandonato da lì a qualche anno, nonostante fosse lo stesso regime che aveva fatto il piano del 31, con l'idea invece di portare lo sviluppo di Roma verso il mare, verso Ostia, verso l'Euro, e quindi è stata un po' abbandonata questa idea. E un'altra cosa carina che era nel piano del 31, che è mai stata abbandonata, che forse molti, non tutti si ricordano, è che si prevedeva di eliminare la stazione Termini per far sì che i treni che venivano da sud, arrivati all'altezza più o meno del Mandrione, si inabissavano, passavano sotto il centro storico, tipo quello che succede a Napoli, e usciva fuori dall'altro lato, quindi oltrepassando le mura aureliane, all'altezza del Flaminio, che sarebbe stato una cosa bella. Le iniziative, questa iniziativa era legata anche a una visione un po' speculativa e nello stesso tempo di grandezza del regime, perché sulle aree abbandonate dalla stazione Termini, dai binari, avrebbe dovuto esserci un grande viale dedicato a Benito Mussolini, con intorno delle grandi delle palazzine, immagini di questa Roma moderna, eccetera. Questa cosa non si è fatta perché praticamente costava molto, ma poi perché appunto si era pensato di spostare lo sviluppo di Roma da un'altra parte, e quindi non si è fatta. Quindi vabbè, adesso se vogliamo far vedere un po', scuso soprattutto grazie a Pagnotto, l'ho fatto attendere, adesso le do subito la parola. Forse funziona questo? Sì, usiamo questo, però siamo. Vorrei la luce perché io... La luce. Non sono pronto. Perché io non sembra, ma sono miope, cioè ho lenti a contatto, quindi senza luce fatico un sacco. Allora, io vi parlerò dell'Istituto Farmacologico Serono, che voi conoscerete benissimo essendo abitanti di questo luogo, quindi probabilmente alcune cose voi già le conoscerete dalla memoria che si è tramandata naturalmente in questo luogo che voi abitate. Va innanzitutto detto per la storia della Serono che, diversamente da altre aziende in generale, non soltanto romane, le capacità personali di Serono, dell'inventore, del creatore dell'azienda, si intrecciano fortissimamente con la vicenda industriale di questo sito e di questa azienda. Innanzitutto va detto che l'azienda non nacque a Roma, nacque a Torino nel 1906 con la denominazione Istituto Nazionale Medico Farmacologico, quindi senza il cognome di Serono. Si spostò poi dopo a Roma e quindi anche in questo caso, come di fronte, ci troviamo di fronte, come anche per altre storie, a dei soggetti importanti nella storia del paese oltre che nella storia della città, che non nascono nella città ma nascono fuori, poi si trasferiscono a Roma perché Roma era la capitale e quindi offriva un panorama di vita diverso rispetto a quello che quel soggetto industriale o meno avrebbe avuto nelle altre città. E ovviamente sono tutti soggetti industriali o no che nascono al nord, dove c'era una borghesia, come si sa benissimo, come sapete benissimo, molto più attiva rispetto a quella locale, a quella romana. L'industria farmaceutica italiana in generale in quegli anni. In Italia l'industria farmaceutica possiamo dire che comincia a nascere come industria vera e propria nella seconda metà dell'Ottocento, e gli stabilimenti che si creano hanno seguito tre strade: quella classica della trasformazione della farmacia in stabilimento industriale vero e proprio, quella della trasformazione delle botteghe alimentari in farmacie, e poi quella dei medici che sono diventati industriali, e il caso della Serono rientra in questa terza strada, perché Serono era anche laureato in medicina, aveva due lauree, una laurea in chimica e una laurea in medicina e chirurgia. La Serono inizia la sua attività all'inizio del Novecento, e però insomma tutta la sua attività ha attraversato il secolo Novecento. Ma sin dall'inizio ci sono tre caratteristiche che possiamo dire si tramandano per tutto l'arco temporale, che sono l'elevato livello scientifico e il continuo aggiornamento della propria attività, la capacità del fondatore Cesare Serono di intessere rapporti molto importanti per l'azienda, che gli saranno poi significativi nel corso dei decenni per continuare ad essere presente con forza nella città. E poi la bassa conflittualità operaia. Allora, vediamoli uno per uno. Da studioso, Serono scelse sin da subito un profilo scientifico alto per la sua azienda e per il suo lavoro, il proprio lavoro di industriale. Fu coinvolto direttamente nell'attività di ricerca, diversi ritrovati sono ritrovati che studiò e che portò a compimento definitivo per essere messi sul mercato lui stesso. Nei primi anni che fu a Roma insegnò anche all'Università La Sapienza, l'unica che c'era all'epoca, come libero docente. E poi bisogna segnalare che nell'istituto volle subito una biblioteca scientifica aperta a quanti nella città avessero necessità di reperire materiale scientifico, e volle anche una rivista aziendale scientifica che si chiamava Rassegna di Terapia. Per quanto riguarda le relazioni che seppe intrattenere con i personaggi importanti, è molto divertente ricostruire, perché lui ebbe subito nel consiglio d'amministratore del consiglio di amministrazione quello che sarebbe poi diventato dopo pochi anni uno dei sindaci di Roma, e cioè Prospero Colonna, che divenne poi il presidente presidente del consiglio di amministrazione. Prospero Colonna fu anche tra i fondatori dell'azienda. Quando muore Prospero Colonna, il suo posto viene preso dal figlio Pietro Colonna, proprio mentre era governatore di Roma. Quindi quale legame maggiore poteva avere direttamente con il governatorato e con il fascismo, se non avere al suo interno il governatore della città? Quando muore Pietro Colonna, c'è un altro personaggio importante, il vicepresidente del Senato di allora, Guglielmi Marchese di Vulci. E poi addirittura, quando muore il Marchese nel 1944, diventa presidente del consiglio di amministrazione il nipote del Papa, e cioè Giulio Pacelli, e dal 1944 al 1971 è lui che è presidente del consiglio di amministrazione, un arco temporale molto lungo. Poi vedremo, sarà interessante vedere perché nel 1971 smette di esserlo. Il terzo elemento caratterizzante: la bassa conflittualità operaia, che c'è per tutto l'arco temporale. E questo perché le maestranze di cui aveva bisogno, anche nelle mansioni più semplici, devono essere però delle maestranze di qualità, di grande capacità, e quindi erano preziose, non erano così facilmente rimpiazzabili, e quindi pur di tenerle il proprietario dell'azienda era disponibile a un buon trattamento del loro lavoro e anche a un buon trattamento dal punto di vista della remunerazione salariale. E nel 1919, in quei due anni che sono stati chiamati il Biennio Rosso, anche alla Serono ci sono delle rivendicazioni e delle agitazioni operaie per avere un aumento delle paghe, e Serono lo concede proprio perché quelle maestranze per lui sono importanti. Vediamo poche cose sulla sede, il manifatto architettonico che voi conoscete, che oggi è anche molto visibile perché è stato restaurato, cioè diciamo anche la biblioteca del comune, insomma una serie di elementi che ce lo fanno essere molto visibile. Poi comunque rimane la scritta Istituto Farmacologico Serono dalla parte della casellina, e quindi anche se si avessero dubbi insomma su che cosa quel manufatto è, questo lo chiarirebbe immediatamente a tutti coloro insomma che non sono del quartiere e che non ne conoscono la storia. Quella sede fu costruita nel 1908 in un posto, appunto quest'area, poco fuori le mura, poco fuori Porta Maggiore. E già dalla costruzione Serono ebbe bisogno del suo rapporto forte con Colonna, perché c'erano una serie di intoppi sollevati, insomma, dal comune per il progetto edilizio, e fu, insomma, grazie a Colonna che invece le cose potettero procedere speditamente. Per il manufatto architettonico possiamo citare alcuni passaggi. Nel 17-18 furono ampliati i locali e fu creata anche la soffieria per creare le fiale. Nel 22 fu innalzato l'edificio, quindi all'origine non era così come noi lo vediamo oggi, e poi nel 27 fu ulteriormente allargato con spazi per i lavoratori. Questi sono i passaggi significativi nel miglioramento del manufatto architettonico. Possiamo dire che da lì in poi, insomma, non ci sono stati grandi interventi. I farmaci prodotti da questa azienda. L'azienda fu da subito un'azienda importante nell'estrazione dei principi attivi dei farmaci dai tessuti animali, anche dai tessuti vegetali, ma soprattutto dai tessuti animali. Ovviamente parliamo di una farmacologia che oggi non c'è più, insomma, oggi è molto diversa. Oggi tutti i farmaci sono farmaci di sintesi chimica. All'epoca no, e ora man mano lo vedremo meglio. E in particolare la Serono fin da subito, fin dal primo dopoguerra, contribuì significativamente a quella branca della farmacologia che era chiamata opoterapia, e cioè l'utilizzo di preparati con i liquidi estratti dagli organi. E il prodotto più interessante, più significativo per tutto un lungo periodo, era la bioplastina, che era una sorta di ricostituente a base d'uovo, dove però c'erano anche delle sostanze, appunto, tratte da alcune componenti dei corpi umani. E vi ripeto, vedremo dopo meglio alcune cose più interessanti. Dal punto di vista della politica industriale più specifica, vera e propria, in campo finanziario la decisione fu subito quella di ottenere l'equilibrio economico, il pareggio economico. Ovviamente un'azienda, quando apre i battenti, deve chiedere finanziamenti alle banche e ha dei momenti che possono essere di difficoltà. Alcuni rimandano la soluzione di questi momenti al futuro, alcuni la risolvono subito. Serono ebbe, oltre a un grande spirito scientifico, anche subito un grande spirito industriale, quindi volle occuparsi di questo immediatamente, senza rimandarlo al futuro. Per quanto riguarda la politica commerciale, altro aspetto della politica industriale, essa fu fin da subito non diretta al pubblico, ma diretta ai medici, perché la scelta di Serono e della dirigenza complessivamente fu quella di non rivolgersi direttamente al pubblico. Perché produceva quei farmaci importanti che non potevano essere assunti dal paziente da solo, dovevano sempre avere bisogno di una prescrizione medica, ci doveva sempre essere il medico a consigliare, e quindi il rapporto diretto di conoscenza dei propri prodotti con il pubblico fu messo da parte fin dall'inizio, e per questo creò anche una grande rete sul territorio nazionale di pubblicizzatori del proprio prodotto presso gli ospedali, presso i medici, presso tutti i centri sanitari. I prodotti della Serono furono subito di alta qualità ed ebbero dei riconoscimenti internazionali. Vi leggo direttamente: nel 1910 all'Esposizione Internazionale di Buenos Aires vinse un Grand Prix per i prodotti, una medaglia d'oro per le pubblicazioni e due diplomi d'onore di collaborazione. Le esposizioni universali erano dei momenti molto importanti, fino, diciamo, alla metà del Novecento sono stati dei momenti molto importanti, ci sono anche oggi, ma oggi non hanno più il valore che avevano all'epoca. Potevano essere esposizioni scientifiche universali, cioè su diversi argomenti, come potevano essere delle esposizioni specifiche, però erano comunque importanti sia quando erano esposizioni universali che quando erano su settori specifici. Poi ancora nel 1911 all'esposizione universale di Torino un gran premio, una medaglia d'oro e tre d'argento. Nel 1912 Serono e Colonna furono relatori e presidenti della giuria dell'esposizione internazionale di igiene sociale di Roma, quindi un riconoscimento generale e un riconoscimento nel campo più specifico scientifico. La prima guerra combacia con la prima attività di uscita dall'Italia e di espansione sui mercati esteri. E la prima sede fuori dall'Italia importante per Serono è a Barcellona, una sede che tiene fino al 36, quando c'è la guerra civile, perde e poi però insomma è chiaro che recupera con molta facilità. Durante la Prima Guerra Mondiale ha degli importanti appalti, diremo, con l'esercito, perché diventa uno dei fornitori principali per quanto riguarda le truppe del centro Italia e poi anche per quanto riguarda la presenza dell'esercito italiano in Libia e in Albania. Ottiene poi sempre per l'esercito l'appalto per la potabilizzazione dell'acqua. E sembra una cosa da niente, però invece è una cosa molto remunerativa, perché chiaramente insomma l'acqua è bene primario e nei luoghi dove l'esercito si ritrovava all'estero doveva essere assunta con sicurezza pura. E poi altro elemento interessante, risulta che studiò i gas asfissianti. Durante la Prima Guerra Mondiale sono state utilizzate quelle che sono state definite le prime armi chimiche, cioè i gas asfissianti. Li ha usati anche l'Italia, purtroppo. E risulta dalle carte d'archivio, ma le carte della Serono sono carte limitate, non sono come l'archivio che voi avete qui e che potete vedere qui. È rimasto molto poco, quindi a quel poco che è rimasto si sa che studiò i gas asfissianti, però non possiamo concludere che non li produsse, questo non lo sappiamo. Fu poi impegnata la Serono nella produzione di quei farmaci che furono molto importanti per alcune malattie che a Roma ebbero un'incidenza significativa. Nel 1918-19 a Roma l'influenza di spagnola fece migliaia e migliaia di vittime e la Serono fu impegnata nella produzione dei farmaci per la lotta a questa malattia. Ancora prima la Serono fu impegnata nella produzione di alcuni dei farmaci che servirono per debellare la malaria in tutta l'area dell'Agro Romano. L'Italia liberale si era molto impegnata per sterminare questa malattia antica che così vicina alle porte di Roma rovinava l'immagine della capitale e quindi direttamente anche dello Stato italiano. Durante il fascismo non ci sono cose particolari da dire di questa azienda negli anni del fascismo, perché la sua attività era ormai grandemente avviata. E bisogna dire però, invece, che di importantissimo che Serono fu il presidente degli industriali fascisti di Roma per tutto il periodo del regime. E che proprio sotto la sua presidenza fu decisa la creazione della seconda zona industriale di Roma, qui vicino a Tor Sapienza. La prima zona industriale di Roma era quella dell'Ostiense e quindi Serono ricoprì un ruolo importante di connessione tra il ceto degli industriali romani e il regime. Di più, Serono fu alla Camera dei Deputati e poi alla Camera dei fasci e delle corporazioni, che sostituì la Camera dei Deputati per quasi tutto il periodo del regime, dal 29 fino alla caduta, fino al 43. E quindi Serono fu una personalità importante del regime in questo periodo. Per quanto riguarda i prodotti, in questi anni si aggiunge l'insulina, che è un prodotto che noi utilizziamo ancora oggi, quindi insomma la Serono, in questi anni è produttrice di un farmaco che allora era un nuovo farmaco, era un farmaco d'avanguardia. La seconda guerra mondiale potete intuirlo direttamente, insomma, perché se siete del quartiere queste cose le sapete. Subì il bombardamento, perché collocata così vicino alla stazione Termini e collocata così vicino agli snodi ferroviari, per forza le bombe caddero anche sull'edificio. L'attività si interruppe, furono gravemente danneggiati i fabbricati, ma soprattutto morirono 7 dipendenti nel bombardamento. Ci sono le foto della Serono bombardata e dello smaltimento delle macerie ad opera anche dell'esercito, perché non tanto si volevano rimettere a posto le macerie della Serono, ma si dovevano sgombrare dalla linea ferroviaria che era proprio lì sotto a fianco alla Caselina, che quindi era stata bloccata con questo crollo. Quando c'è l'occupazione nazista a Roma, i nazisti, voi sapete, asportarono diversi macchinari da alcuni siti romani, requisirono anche, lo vedremo poi nella prossima occasione, diverse vetture dell'ATAG proprio da qui dal deposito, e alla Serono furono i dipendenti che riuscirono a mettere in salvo il materiale nascondendolo, così come è accaduto anche per altre realtà italiane. Il dopoguerra, i primi anni del dopoguerra, con il bombardamento subito, ovviamente sono molto, molto impegnativi per l'azienda. Oltre all'impegno nella ricostruzione materiale del sito, in questi anni l'azienda decide di passare alla fabbricazione di alcuni elementi direttamente in loco per risparmiare, quindi decide di passare alla fabbricazione dell'alcol che le serviva, all'estrazione di alcune vitamine e alla produzione direttamente, insomma, di glicerina e per alcune produzioni specifiche la sua sostituzione con altre sostanze che essa stessa produceva. Ma la cosa interessante è per l'acquisizione e il suo impegno per risolvere il proprio problema energetico, e quindi all'energia elettrica in alcune produzioni sostituisce la produzione in loco del vapore. Il vapore può essere unito a delle turbine piccole e grandi, una fonte di energia equivalente, insomma, all'elettricità. Ma nel dopoguerra si pongono anche i problemi dell'epurazione per Serono, perché Serono, così coinvolto nel fascismo per tutto il periodo del regime, ovviamente viene colpito dalle leggi sull'epurazione, e viene colpito esattamente quando queste vengono estese anche agli amministratori delle società per azioni. Così si dimette dalle sue cariche aziendali, continua ovviamente, insomma, a seguire il lavoro dell'azienda, e poi, insomma, come tutti ne esce senza problemi dal processo di epurazione. Però muore dopo poco, muore nel 52 senza lasciare eredi, per cui chi prende in mano le redini dell'azienda è un altro personaggio con un'altra storia familiare, che è Pietro Bertarelli. Questo cognome si è tramandato, è rimasto nell'azienda fino a pochi anni fa, fin quando la Serono non è stata assorbita dalla multinazionale svizzera a cui appartiene ora. Anni 50 e anni 60, a questo punto lo scenario nazionale e internazionale dell'industria italiana e della farmacologia diventa molto diverso da quello che aveva conosciuto e aveva contribuito a costruire Cesare Serono. E le due grandi questioni che si pongono in Italia sono la riforma sanitaria e la presenza delle industrie farmaceutiche straniere. Allora, la riforma sanitaria. Nel 1943 proprio il fascismo aveva tentato di mettere insieme in un ente mutualità unico, INAM, poi chiamato INAM, diverse casse e istituti che avevano funzione di assistenza. Questo processo era però rimasto incompiuto. Che cosa aveva a che fare questo con l'industria farmaceutica? Nel 49 l'INAM era stato aveva l'incarico di, dal 49 in poi l'INAM ebbe l'incarico di definire quali farmaci avrebbe acquisito il sistema sanitario nazionale. E in particolare ci furono vari passaggi in cui aumentò a dismisura i farmaci da acquisire, ma in particolare alla fine degli anni 50, nel 57, lo portò ad addirittura 17.000 prodotti. Quando questo divenne, diciamo, oggetto di polemica, l'INAM si giustificò dicendo che se non avesse aumentato così tanto il prontuario dei farmaci, le aziende produttrici non gli avrebbero permesso di acquistarli con il 40% di sconto che aveva ottenuto. Nel frattempo però le industrie farmaceutiche dal canto loro dicevano di non essere per niente soddisfatte di questo rapporto, perché invece loro si lamentavano dei prezzi alti che l'INAM aveva stabilito. Tutto questo non è altro che diciamo, quel normale rapporto tra Stato acquirente e industria fornitrice dello strato, cioè segue una dinamica che è quella che si ritrova spesso anche in industrie molto diverse come l'industria meccanica. Ma a proposito di questo, della riforma del sistema sanitario, bisogna dire che in questi anni ci furono delle proposte di nazionalizzazione dell'industria farmaceutica, che oggi ci sembrano impossibili, incredibili, perché oggi l'industria farmaceutica a livello internazionale possiamo dire che è la lobby più potente. E ci fu una proposta che fu presentata in Parlamento, quindi fu proprio fatta, del Partito Comunista. Questa allarmò ovviamente tutta l'industria farmaceutica italiana e insomma non se ne fece niente, come si sa, poiché l'industria farmaceutica non fu nazionalizzata. L'unico caso da questo punto di vista un pochino, diciamo, simile, da parte i paesi con regimi comunisti, che noi conosciamo nella storia del Novecento, è Nelson Mandela, che per avere i farmaci contro l'AIDS ad un prezzo accettabile per quello Stato ha interrotto i rapporti con le grandi case farmaceutiche internazionali e ha deciso di produrli direttamente. Quindi diciamo che era, con il senno di poi, noi oggi sappiamo che era un'iniziativa del tutto impossibile, però mise in gravissimo allarme tutta l'industria farmaceutica e anche la dirigenza della Serono. Abbiamo detto prima la presenza straniera in Italia in questi anni, in particolare a Roma, perché si crea la Cassa del Mezzogiorno subito a sud della città. Alcune aziende farmaceutiche vengono a stabilirsi in quest'area della Cassa del Mezzogiorno e quindi alcune case farmaceutiche straniere, e quindi vi è il pericolo della concorrenza delle più grandi delle case straniere. E da parte della Serono c'è una richiesta di intervento, di tutela dello Stato dei prodotti italiani. Però diciamo la dinamica poi alla fine non diventa molto significativa, mentre è significativo il fatto che proprio per questi timori la Serono introduce alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, delle modernizzazioni nel suo processo produttivo, cioè lo rende più meccanizzato rispetto a prima. E anche in questa meccanizzazione questa industria farmaceutica si rivela all'avanguardia rispetto ad altre industrie farmaceutiche italiane. E qui con, diciamo, gli anni 50 e gli anni 60 ritorniamo ai prodotti dell'azienda. In questi anni il prodotto più noto e più di successo è un prodotto che si chiama Pergonal ed è un prodotto per la cura dell'infertilità, un prodotto a base di gonadotropine contenute nell'urina femminile dei soggetti in post-menopausa. Quindi bisognava recuperare le urine. Abbiamo detto prima che la Serono ha sempre lavorato su farmaci prodotti da componenti del corpo umano e da componenti del corpo animale. Sono cose che a noi sono sconosciute e ci fanno grande impressione, però questa è la storia dell'industria farmaceutica e della materia. Ed è molto divertente questa storia qui delle urine, perché inizialmente le urine venivano ottenute dando dei pacchi alimentari in dono, soprattutto nelle campagne italiane, nelle zone più povere. Questo perché la legge stabiliva che non si possono comprare, non si possono pagare componenti dei corpi umani o sostanze estratte dai corpi umani, e quindi neanche una cosa banale come l'urina. Ma poi ci fu il boom economico e all'inizio degli anni 60 era diventato difficile trovare chi fosse interessato a questo scambio con i pacchi alimentari, e quindi ci si rivolse all'estero, alle zone più povere dell'estero. Bisogna dire che nell'acquisizione delle urine femminili dei soggetti in post-menopausa, la Serono attingeva anche ai conventi di suore. Abbiamo detto prima che c'era la nipote di Pacelli nel consiglio di amministrazione, quindi questa nota molto divertente, molto curiosa, molto strana, per cui aveva un accesso facilitato a questo materiale che serviva per poter avere questo farmaco. Abbastanza inquietante, dall'Europa dell'Est arrivavano diverse componenti dei corpi umani alla Serono, tra cui le ipofisi umane, che gli servivano per avere il principio attivo per creare un farmaco contro il nanismo ipofisario. Queste grandi capacità scientifiche della Serono, acquisite negli anni con l'estrazione degli ormoni e delle altre sostanze dagli organi umani e animali, la mise anche in condizione di essere la prima azienda a saper produrre la pillola anticoncezionale in Italia, ed era in grado di metterla sul mercato nel 1964, ma la pillola anticoncezionale in Italia fu vietata fino al 1971, e nel 1971 Pacelli esce dal consiglio di amministrazione, abbandona l'azienda perché l'azienda mette in commercio la pillola anticoncezionale, su cui chiaramente, insomma, come si sa, la Chiesa era grandemente contraria. Raccontiamo qualche cosa in più sui lavoratori. Abbiamo detto che per tutta la storia della Serono, insomma, la pace sociale è un elemento che ha caratterizzato la storia dell'azienda. Ma nel 1953 si decide un regolamento aziendale di disciplina molto più severo, perché si voleva impossibilitare l'entrata del sindacato in fabbrica, si voleva impossibilitare il diritto di sciopero, si volevano violare gli accordi confederali sul licenziamento, ma soprattutto nel 1953 la Serono voleva reinserire il licenziamento per le donne che contraevano matrimonio. E quindi ci fu una mobilitazione della CGIL che finì anche in consiglio comunale, che finì anche in prefettura, per superare questo tentativo. Chi ha conosciuto Serono in azienda, le persone più anziane, mi hanno raccontato che Serono era un gran patriarca e molto maschilista, per cui aveva questa idea che le donne dovessero comunque dedicare la propria vita al matrimonio, e che quindi, insomma, una volta che avevano scelto quella strada, dovevano abbandonare. Questo in contraddizione con il fatto che poi lui invece in azienda aveva bisogno di manodopera femminile, perché le donne erano molto più capaci nella manualità, nella gestualità che serviva per utilizzare le fiale, per utilizzare i piccoli strumenti del confezionamento dei farmaci. Insomma, quindi per chiudere sulla Serono, la Serono non è stata una grande azienda dal punto di vista del numero degli operai che ha impiegato. Da questo punto di vista è stata superata dalla Leo, dalla Palma, aziende che erano a Roma e poi si sono trasferite in zona Cassa del Mezzogiorno, subito a sud di Roma. Ma è stato un esempio importante di alto livello scientifico, di alta professionalità scientifica e industriale, proprio qui a Roma, che è sempre stata invece considerata una città non industriale. E allora, per chiudere, io vorrei dire, a proposito di questo pezzettino di città che voi vivete, che questo è un pezzettino di città molto importante Proprio per questo, perché Roma è stata considerata sempre una città non industriale, ma se noi andiamo a studiare i numeri delle aziende, andiamo a fare il calcolo con i dati del censimento, vediamo che sì, certo, ha avuto meno industrie rispetto a Torino e a Milano, ma che non è stata affatto una nullità industriale Roma. E allora questo pezzo di città è interessante perché ci permette di recuperare la memoria industriale della città, e recuperando la memoria industriale della città noi recuperiamo anche la memoria operaia della città. Mentre Torino e Milano hanno una memoria operaia della città molto evidente, sempre, che è sempre stata costruita anche dal sindacato con molta attenzione, a Roma non è stato così, perché è passata questa idea nella politica e nella cultura che la città non era una città industriale. Finito. Spero di essere stata nei tempi. Ringrazio. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Noi per la fabbrica viscosa, che poi è meglio conosciuta nel quartiere come SNIA, ma vedremo adesso le fasi di trasformazione anche dell'onomastica in base alle proprietà e ai finanziamenti della fabbrica, faremo un intervento in due, io e Niso che ora è andato in bagno. E facciamo un intervento a due voci perché gli studi e le fonti a disposizione in questo momento per degli approfondimenti sulla fabbrica sono legati prevalentemente a fonti bibliografiche che o sono contemporanee alla vita della fabbrica o sono studi su appunto queste fonti o sui dati di archivi come documenti del Ministero degli Interni o articoli di giornale che parlano della fabbrica. Quindi sono fonti da una parte filo governative, filo istituzionali per quello che è il periodo della vita della fabbrica che va dal 22 al 55 o fonti come gli articoli di giornale che documentano la vita degli operai della fabbrica secondo un punto di vista totalmente opposto da quello governativo. Al momento noi stiamo partendo da questo materiale che è a disposizione, ma all'interno appunto del centro di documentazione Archivio Storico Viscosa abbiamo avuto la possibilità nel corso degli ultimi 15 anni di cominciare ad approfondire e a toccare alcune tematiche che questo archivio mette a disposizione. Quindi diciamo che il nostro intervento è a due voci, ma dovrebbe essere a più voci ancora, proprio perché è tutto il centro di documentazione, il collettivo scientifico che ci sta lavorando all'interno, che piano piano apporta novità e nuovi frutti alla ricerca sulla fabbrica. L'archivio storico Viscosa, se volete, il volantino si trova sul tavolo, è custodito in questo spazio, come è stato già detto, anche se è ancora in via di totale sistemazione e inventariazione, sono fruibili solamente una parte dei documenti presenti all'interno dell'archivio, ripeto, trovato all'interno della fabbrica, gli stabilimenti il cui accesso è a largo Preneste, al momento dell'occupazione, 19 anni fa precisi praticamente. Dunque, è per questo motivo che divideremo l'intervento in due voci, proprio anche per sottolineare il taglio collettivo delle ricerche che stiamo dando e che vorremmo e continueremo a dare. Dunque, la fabbrica e l'archivio, per questo la chiameremo Viscosa e non SNIA per una fase iniziale, proprio perché, non so se vedete poi l'immagine proiettata, c'è una breve cronostoria che ci permette di capire quali sono tutti gli intrecci che si adoperarono tra proprietà, alleanze finanziarie e non solo, che poi portarono la fabbrica da Cisa Viscosa a quella che è più conosciuta all'interno del territorio come SNIA Viscosa. E anche il lago, continuiamo a chiamarlo lago SNIA, proprio perché è l'onomastica più comune. Diciamo che la prima pietra dello stabilimento chimico tessile che viene posizionata qui nel maggio del 22 prende il nome addirittura di Società Seta Artificiale di Padova e nel 23 diventerà Società Generale Italiana della Viscose e conta già 2500 operai. Già nel 23 la fabbrica, che non ha neanche un anno di vita, prevede un ampliamento dello stabilimento e arriva a 3500 operai con una produzione di circa 6000 kg di seta artificiale. Velocemente, andando senza troppi passaggi che potete meglio vedere dallo schema che è proiettato, da Società Generale Italiana della Viscosa del 23, nel 29 la Viscosa entra in consorzio di vendita del Rayon con la SNIA di Riccardo Gualino più una percentuale della Fiat. E nel 39 la Cisa Viscosa si fonde in maniera definitiva e si trasforma in SNIA Viscosa. Una curiosità sull'onomastica della fabbrica è che la diciamo parte Cisa, la parte della parola Cisa, C, viene dalla Cines, che per chi la conosce aveva originariamente gli stabilimenti non a Cinecittà ma a Via Veio a San Giovanni ed era praticamente si occupava della fabbricazione della nitroceluloide per le pizze dei film, per capirci. E per quale motivo c'è questa fusione con la Cines originariamente? Perché il prodotto originario nel processo produttivo è la cellulosa, che proviene dalla trasformazione, in questo caso, delle canne da palude. Quindi la cellulosa che veniva utilizzata alla viscosa e la cellulosa nitroceluloide che veniva utilizzata per la Cines erano la stessa materia prima che entrava in produzione per prodotti differenti. Accenno brevemente anche al ciclo produttivo, perché ovviamente la viscosa produceva seta artificiale o viscosa ed è uno stabilimento che poi diventerà il fiore dell'occhiello a regime, uno stabilimento non propriamente tessile ma più propriamente specificatamente chimico tessile, uno dei primi in Italia che applica delle trasformazioni chimiche nel processo produttivo, che poi, come vedremo, hanno non poche conseguenze non solo sulla produzione ma soprattutto sul lavoro e inevitabilmente sui lavoratori. Dunque, l'industria è un'industria di trasformazione, lavora il rayon, che è un filato che viene praticamente che si ottiene dalla cellulosa e il ricavato è molto simile a quello della fibra naturale. Il rayon veniva prodotto o in filo continuo, in bobine di filo continuo, oppure veniva diciamo prodotto in fiocchi. Poi vedremo delle foto rispetto a questi i prodotti della lavorazione. Il ciclo produttivo è fatto di diverse fasi, non so quanti di voi sono entrati nella fabbrica negli ingressi che abbiamo fatto nei mesi passati, però i vari edifici dello stabilimento dividevano proprio i passaggi successivi della produzione, che erano chimici da una parte e tessili dall'altra, attraverso dei settori che erano per il chimico prevalentemente con manodopera maschile e per il tessile con un alto numero di manodopera femminile. Entrando nella fabbrica da Largo Preneste, il chimico stava sulla destra, il tessile si trovava sulla sinistra ed erano i capannoni ovviamente più grandi e numerosi. Questo in una fase iniziale, perché poi anche all'interno della fabbrica i cicli cambiano e anche il chimico subentra sulla parte sinistra degli stabilimenti, per esempio nella fase del candeggio, dove erano applicate prevalentemente le donne, quindi anche questa separazione non deve essere considerata in maniera netta, così come ve l'ho presentata, perché il ciclo di vita della fabbrica di 33 anni subirà non poche modifiche. Dunque il ciclo produttivo molto velocemente parte da questa massa colloidale viscosa che è di colore arancione, che viene poi filata a volte in bobine o raccolta in matasse, poi viene coagulata in un bagno solidificante, e qui intervengono altri agenti chimici nella lavorazione, che rigenera la cellulosa, e poi viene trattata con un lavaggio, con la torcitura e infine con il candeggio, che sono i vari reparti in cui lavoravano i diversi operai. Approfondiremo magari in un altro incontro, perché questo è uno dei primi seminari che il centro di documentazione sta organizzando, approfondiremo meglio il ciclo produttivo, ve ne stiamo dando un assaggio in questo momento, soprattutto perché poi entrando nella fabbrica siamo maggiormente stimolati dalla curiosità di capire che cosa succedeva all'interno appunto di quei grossi edifici o ruderi di edifici che continuiamo a vedere sulla Prenestina. Dunque, questo un po' brevemente per capire di che cosa si tratta e di che cosa stiamo parlando. Però diciamo l'intervento di oggi vuole più che altro concentrarsi su quello che è la fabbrica, su quella che è la vita intorno alla fabbrica, all'interno della fabbrica, il sistema lavorativo della fabbrica, con questo focus all'interno di una forcella cronologica indicata da Carmelo, che è quella appunto degli anni 30. E a noi piace un po' immaginare questa fabbrica in funzione attraverso un'immagine che richiama un articolo scritto per l'Ital Sidel di Bagnoli, che è da Renata Pepicelli, che appunto è Al suono delle sirene. E ci piace iniziare con questa espressione perché Al suono delle sirene ricorda proprio come la vita del territorio intorno alla fabbrica fosse condizionata dalla presenza di questo stabilimento, che, come si è detto in precedenza, era uno stabilimento enorme, e tra l'altro attraverso i fumi chimici che uscivano dallo stabilimento stesso non era solamente un edificio di cemento che muoveva masse umane, ma anche era suoni, odori, se non puzze, rumori e oltre che traffico umano. Quindi il suono delle sirene è proprio come la scansione del tempo, anche della vita degli operai e degli abitanti del quartiere, fosse scandita dalle sirene di accesso alla fabbrica. Rimetteva gli orologi con appunto le tre sirene delle tre fasi lavorative, perché la produzione era 24 ore su 24 con cicli di 8 ore quando si rispettavano le 8 ore, che partivano la mattina e continuavano fino alla notte. Quindi praticamente le sirene suonavano per scandire gli ingressi e le uscite dalla fabbrica. Per cui immaginiamo la prima sirena, l'arrivo dei tre tram che partivano da tre parti differenti della città per arrivare appunto all'ingresso di Largo Pinestre. C'era stato un accordo ancora prima del posizionamento della prima sede, della prima pietra della fabbrica, con la ditta di trasporti locale, per far arrivare da tre punti diversi della città tram, quindi dalla zona di Santa Maria, Santa Croce in Gerusalemme, dalla zona di Prati e dal Tiburtino, di far arrivare questi tram puntuali, ovviamente, per far arrivare tranquilli e puntuali gli operai in fabbrica. Partivano alle 6:30 da queste tre sedi e arrivavano per le 7 per il suono della prima sirena. Quindi immaginatevi l'arrivo a Largo Preneste di questa folla di operai ed operaie, perché, come è stato già detto anticipatamente, la fabbrica impiega una grossa manodopera femminile che è all'incirca il 40% della manodopera interna, insieme appunto alla Serono, non per una questione di produttività, ma semplicemente per una questione di sfruttamento puro e crudo, perché lo stipendio femminile veniva ovviamente, era un salario più basso rispetto a quello maschile. Quindi requisito importante per i lavoratori di una fabbrica a sistema era la puntualità e la tranquillità, e questi tram garantivano questo. Addirittura erano tram riservati, c'era proprio il cartello, l'insegna che indicava riservato per gli operai della SNIA, all'andata, al ritorno potevano salire altri viaggiatori, perché al ritorno non interessava più la puntualità ovviamente alla ditta. I tram erano per le manovalanze più basse, per i funzionari e gli imprenditori invece erano riservati proprio dei pullman e degli autobus addetti. Quindi ci rendiamo conto proprio da questa immagine iniziale un po' romantica, come effettivamente non si trattasse solamente di un corpo, di un edificio così come lo vediamo noi, uno scheletro senza anima, ma che era una parte integrante della storia stessa di queste strade e di questi quartieri. Queste informazioni, da che cosa, visto che ho parlato di fonti, da che cosa le tiriamo fuori? Vi ho detto che la SNIA veniva considerata il fiore all'occhiello del regime, un colosso per il fascismo romano, e già nel 1925 abbiamo un articolo pubblicato su Capitolium, che poi era la rivista che glorificava il regime, di Nerbini, il quale descrive proprio per questo atto di glorificazione del regime stesso tutta la vita legata alla fabbrica che aveva non appena un anno e mezzo. Quindi già c'è sul Capitolium la glorificazione di questa grossa fabbrica che, come ho detto prima, nel 25 muoveva all'incirca 3.500 operai. Nerbini ci racconta perché venne costruita qui. Siamo fuori Porta Maggiore, a 4 chilometri dal centro della città, in una zona non del tutto salubre, perché la toponomastica attuale già ci ricorda la presenza dell'acqua bollicante, questa acqua solfurea probabilmente che scaturiva. La Marranella, che per chi le conosce, sono sempre state paludi, fiumiciattoli, non sempre igienicamente protetti, e fossili questi di quello che è l'attuale presenza del lago all'interno della zona della fabbrica. Quindi una presenza importante quella dell'acqua proprio per il funzionamento della fabbrica stessa. Continua Nerbini dicendo che appunto gli elementi favorevoli al posizionamento della fabbrica in questo punto erano diversi: non che fosse una zona paludosa ed insalubre, ma c'era l'acqua, e questo nel ciclo produttivo è estremamente importante. I terreni avevano un costo inferiore rispetto alle zone dentro le mura. C'era la ferrovia, c'è tuttora, la Roma Sulmona e la Roma Latina, la via Consolare, la Prenestina, poi la via di Portonaccio, ex via militare. Quindi da un punto di vista anche di quadratura del cerchio per il trasporto di materiali e l'accessibilità della zona, il terreno e il posizionamento era considerato estremamente favorevole. Quindi Nerbini ci fa nel 25 questo quadro e definisce la SNIA, ve lo metto tra virgolette, opera colossale che glorifica il regime. Questa è la prima parte delle fonti che noi abbiamo a disposizione, fonti filogovernative in un periodo, quello del ventennio fascista, che si lega all'imprenditoria industriale locale e che quindi ha tutto l'interesse di glorificare l'azione dello Stato e l'azione del fascismo sull'attività stessa della fabbrica. Quindi descrive quello quella immagine che vi ho dato dell'arrivo dei tre tram, e sarà Nerbini stesso a dire, virgolettato, così gli operai arrivano freschi e puntuali. Certo, l'interesse di un lavoratore è lavorare e mantenersi il posto di lavoro. Ovviamente l'interesse che arrivassero freschi e puntuali, che fossero tranquilli sul posto del lavoro, è quello dell'imprenditore che parla a questo proposito per nome del suo portavoce sulla rivista del regime. Parla ulteriormente Nerbini di questi famosi padiglioni di cui ha accennato Marco all'inizio, 5 padiglioni per il riposo degli operai. Infatti c'erano i padiglioni per dormitorio, c'era l'asilo, abbiamo detto che probabilmente questo stabile che ora ospita il centro di documentazione, la serra, l'officina ristrutturato dove siamo noi oggi, fosse l'asilo, uno dei primi asili a Roma, asilo nido, che poi verrà affiancato sempre qui nel sistema fabbrica da un asilo infantile che ospitava 60 bambini che erano i figli delle dipendenti della fabbrica, gestito, come appunto diceva prima Carmelo, da un assistenzialismo cattolico di base che era quello delle suore di Santa Maria ausiliatrice, fondamentalmente diciamo del gruppo dei Salesiani, tant'è vero che era di proprietà di questa fabbrica anche il convento che si trova all'incrocio tra via Prenestina e via di Tordeschiavi, che è sempre dei Salesiani, è stato ritrovato appunto nelle carte. E, ovviamente, scusate, ho dimenticato una cosa rispetto al trasporto tranviario, erano riservate linee per farli arrivare tranquilli e puntuali, però pagavano il biglietto, cioè non è che questo fosse esente dal pagamento del biglietto, così come, sottolinea Nerbini, la presenza di una mensa refettorio interna in cui veniva misurata e calcolata la qualità del cibo che veniva offerto agli operai, però anche lì pagavano una cifra tipo 2 lire a pasto per poter mangiare. Esisteva poi, sottolinea ancora Nerbini, già nel 25 lo spaccio alimentare interno. Chi è venuto con noi nei giri della fabbrica ricorda che prima di arrivare al cancello scendendo sulla via Prenestina ci sono 2 finestre chiuse con del ferro. Quello era lo spaccio che dava sulla Prenestina, quindi vendevano sia all'interno che all'esterno, e abbiamo trovato documenti che appunto testimoniano la presenza e la funzionalità di questo spaccio fino agli anni 70, per cui la fabbrica chiude nel 55 ma lo spaccio continua in seguito. Quindi fondamentalmente il quadro che ci dà Nerbini nel 25 si conclude con ancora un altro aspetto fondamentale per la salute e il benessere degli operai, che è che è l'impegno dell'attività sul tempo libero. E quindi oltre alla mensa, allo spaccio, ai dormitori, agli asili, uno spazio riservato all'educazione tecnica delle operaie, che poi era imparare a cucire, a rammendare e così via, e c'è un'altra sezione tutta legata alle attività sportive, quindi c'era il football, il campo da tennis, la palestra e tutta una serie di edifici che permettevano il rilassamento muscolare degli operai attraverso appunto l'attività sportiva all'interno del sistema fabbrica. E, per il 25esimo anniversario della fabbrica la direzione pubblica un'autocelebrazione sottolineando appunto questo aspetto assistenzialista per gli operai e dice che in questo modo si contribuisce alle condizioni di tranquillità, saldezza e sviluppo che vanno nell'interesse dei lavoratori, aggiungiamo noi, nell'interesse dei proprietari e dei produttori. Tutto questo affiancato, sottolinea ancora questa autocelebrazione della fabbrica, dall'assistente sociale che affianca, consiglia, indirizza, sollecita e collabora con l'operaio. Quindi queste sono diciamo un po' un quadro molto veloce quello che sono le prime fonti che abbiamo avuto a disposizione per la storia della fabbrica, che poi sono le fonti contemporanee alla vita della fabbrica stessa, alle quali aggiungiamo l'Osservatorio della Fiscosa pubblicato nel 42 e un articolo proprio sull'assistenza sociale nelle industrie romane con un focus specifico sulla SNIA di Corsi nel Capitolium del 41, che prevede proprio il controllo, analizza proprio il controllo aziendale anche fuori dalle ore di lavoro. Il tutto rientra in un'espressione del Duce che dice: i capitalisti intelligenti non si occupano solo di salari, ma di case, ospedali, campi sportivi per gli operai stessi. Questo è diciamo un volto della medaglia. L'altro volto della medaglia, quindi le altre fonti che abbiamo a disposizione, escludendo ovviamente tutto quello che poi è l'apporto dell'archivio del personale della fabbrica che è conservato qui dentro, sono gli articoli di giornale e i documenti che provengono dagli archivi di Stato. E attraverso gli archivi di giornale ovviamente viene data voce a tutta l'altra parte del... vabbè, ci sono delle foto, poi magari ve le facciamo vedere velocemente. Non ce l'ho messa. Vabbè. Degli articoli di giornale, dici? Gli articoli di giornale che invece documentano aspetti totalmente opposti diciamo, a quella che è la visione autocelebrativa della stessa fabbrica, e quindi ci sono gli articoli o la documentazione su le attività sovversive interne alla fabbrica e al quartiere del 24-25 e poi del 49. Sono articoli facilmente accessibili, per esempio soprattutto quelli del 49 sull'archivio dell'unità, dove si racconta per il 49 un'occupazione della fabbrica di 39 giorni, giorno e notte, in cui si fermarono tutte le maestranze, anche femminili, creando scandalo da una parte in tutta Roma, perché le donne abbandonano le famiglie, addirittura i bambini venivano passati sopra il cancello per l'allattamento e poi venivano restituiti ai padri che stavano fuori, ma anche dall'altro lato grossa solidarietà per la forza e la consistenza di quel momento di lotta e di rivendicazione all'interno della fabbrica. L'altro momento molto forte è quello del 24-25, la fabbrica diciamo entra in produzione nel 22, quindi a non meno di 2 anni dall'apertura dei cancelli, e di questo abbiamo traccia non solo all'interno della documentazione giornalistica o degli archivi del Ministero o carte della Polizia, ma anche all'interno di una documentazione molto più dettagliata, per esempio nelle carte dell'archivio, in cui si parla di licenziamenti volontari. Veri e propri licenziamenti volontari non erano, ma erano normalizzazioni interne da parte della proprietà per chi si opponeva all'interno della fabbrica stessa. Questo giusto per dare un assaggio di quello che c'è e di quello che può poi uscire da tutte gli approfondimenti e l'arricchimento a questi approfondimenti che un materiale come quello dell'archivio di questo centro di documentazione può dare, essendo anche uno dei rari materiali esistenti a Roma e in Italia che appunto si concentra sul personale. Le schede del personale parlano della vita del personale all'interno della fabbrica. Chi le compila ovviamente è la burocrazia, i funzionari interni della fabbrica, ma tra punizioni, respingimenti, licenziamenti volontari e quant'altro esce fuori tutta un'altra faccia e un altro aspetto di questa medaglia. Dunque io chiudo dicendo che appunto il focus di quello su cui ci stiamo concentrando ora è proprio i ritmi di produzione della fabbrica, l'organizzazione con ritmi di produzione serrati ed estremamente elevati, ma un sistema soprattutto di controllo e di repressione che viene a controllare e sorvegliare non solo il ciclo produttivo, ma chi permette questo ciclo produttivo, che sono quindi i lavoratori e le lavoratrici della SNIA. Quindi passo la parola a Niso. Allora, salve a tutte e tutti. Il mio è stato uno studio, grazie a queste carte presenti qui in archivio, però nello specifico è di antropologia medica. Ora brevemente per spiegare che cos'è l'antropologia medica e perché io abbia fatto una ricerca del genere rispetto a questo tipo di materiale. L'antropologia medica non è nient'altro che la messa in discussione delle categorie mediche e delle pratiche terapeutiche della medicina ufficiale, quella che l'antropologia considera e chiama biomedicina. E nello specifico ho abbracciato una corrente di pensiero dell'antropologia medica che nasce negli anni 70, che è quella dell'antropologia della sickness, ovvero prende in considerazione l'aspetto sociale della malattia, e in quanto la malattia non viene più considerata soltanto come patologia, come solo da un punto di vista biologico, ma soprattutto da un punto di vista sociale. Si vanno a indagare le cause che causano malattia, l'incorporazione delle disuguaglianze di malattia e delle disuguaglianze sociali che portano a malattia, e quindi viene vista in un contesto più generale, come dice un antropologo americano, Paul Farmer, di sofferenza umana, quindi non malattia vista da un punto di vista della patologia, ma dal punto di vista della sofferenza umana. Infatti c'è un altro antropologo australiano, Tossi, che parla degli aspetti che riguardano la malattia, dice sono fatti sociali tanto quanto fisici e biologici. Detto questo, il materiale qui presente è stato di grande aiuto per la ricostruzione di storie di vita e l'analisi delle cartelle dei registri medici. Mi ha permesso di risalire alle cartelle cliniche anche nei vari ospedali di Roma, e quindi si è riuscito a creare un quadro completo della situazione. Il contributo che sento di dare oggi, vista la varietà degli argomenti che è stato possibile inquadrare e portare avanti grazie al materiale qui presente, era rispetto soprattutto al sistema della fabbrica, a come funzionava la fabbrica, al controllo dei corpi, in quanto tutte le cose che ci siamo detti oggi rispetto alla SNIA e di come funzionava, dell'aspetto totalizzante di questa fabbrica riguardo la vita delle operaie e degli operai, era proprio la gestione, abbiamo detto, dei tempi, degli spazi, una sirena che scandiva i ritmi di lavoro, ma anche la vita di tutto il quartiere. Era presente il convitto, era presente lo spaccio, quindi qui si dormiva, qui si veniva a fare la spesa, si mangiava, c'erano le attività ricreative, c'era il potere aziendale che si sovrapponeva a quello del regime fascista, tutte le politiche del dopolavoro fascista che inquadravano la vita degli operai all'interno di questa struttura. Per cui insomma, andando a ricercare negli studi antropologici questo tipo di situazione, questi tipi di luoghi vengono chiamati istituzioni totali. Il primo a parlarne è Irving Goffman, ma anche Foucault ne parla, soprattutto loro ne parlano però rispetto ai manicomi, ma le descrizioni che ne fanno insomma, sono di soglie di entrata e di uscita molto rigide, di controlli, di addetti che controllano le persone presenti. Oltretutto Goffman fa risaltare tre aspetti di un'istituzione totale, che sono quello del lavorare, del dormire e del divertirsi. Dice quando all'interno dello stesso luogo questi aspetti vengono fatti da tante persone nella stessa maniera e con un potere centrale che li indirizza, vive nello stesso modo, questa è un'istituzione totale. Beh, la SNIA mi sembrava un'istituzione totale rispetto a questo tipo di descrizione. Quello che ne viene fuori, e qui riprendo degli studi fatti da Foucault, è una meccanica del potere, di come agiva il potere rispetto a queste persone. Infatti ho preso in considerazione due aspetti della sofferenza delle operaie della SNIA. Uno è quello della violenza politica, l'altro è quello delle malattie professionali. E come violenza politica non intendo esclusivamente quelle persone che si ribellavano attivamente, chi ha partecipato alla resistenza, chi è stato insomma partigiano, chi ha svolto azioni di ribellione, e qui insomma in queste cose Alessandra ha fatto studi per tanti anni, ma soprattutto quelle persone, dico tra virgolette normali, che si trovano a dover vivere delle scelte politiche da parte dell'azienda e del regime rispetto alla propria vita, e quindi dover avere un controllo dei propri spazi e del proprio tempo molto repressivo. C'erano i capi reparto, c'erano persone che potevano dare delle punizioni che si svolgevano con delle multe, quindi c'era veniva sottratta parte della paga giornaliera rispetto a persone che già versavano in condizioni di precarietà esistenziale. Infatti molti di loro venivano da queste zone, dalle zone del quartiere, dalle borgate, dove mancavano servizi igienici, mancavano strutture, e in questo caso il ricatto economico non ha solo un aspetto prettamente economico, ma ovviamente riguarda la sfera di tutta la vita di queste persone, da un punto di vista politico, da un punto di vista della salute, e l'azienda, il controllo, prima parlavo della meccanica del potere, e si comportava allo stesso modo, il gioco del potere era lo stesso, era quello del controllo del corpo. Dal momento in cui questo corpo non riusciva più a essere controllato, disciplinato, dice Foucault, veniva allontanato. In che modo? O con un licenziamento, o mettere in condizione queste persone di avere un licenziamento volontario, perché è pur vero che tante persone, dopo anni e anni e anni a contatto con le sostanze chimiche, decidevano di andarsene via, poi le motivazioni che si trovavano sulle cartelle del personale non le più varie, da insomma miglioramento di una busta paga, cambio di residenza, ovviamente le condizioni di vita qui dentro erano abbastanza dure da dover affrontare, quindi c'è anche questo aspetto, ma è sempre, vi direi, un potere centrale che determina questo tipo di situazioni. E la posta in gioco quindi che si veniva a creare era proprio la struttura di questo rapporto. Ho parlato della violenza politica e delle malattie professionali. Questo convegno, io direi, si basa soprattutto, ci siamo detti, sugli anni 30 dell'industria romana, e negli anni 30 sono anche gli anni in cui vengono fatte le leggi riguardo al riconoscimento delle malattie professionali. Infatti nel 1938 entra in vigore la legge del 1935 che riconosce un indennizzo per solfocarbonismo. Il solfocarbonismo era l'intossicazione cronica da solfuro di carbonio, e precedentemente a questa legge del 1938 la malattia professionale veniva riconosciuta solamente agli operai, e dico operai e non operaie perché i reparti chimici erano soltanto ricoperti da operai, che lavoravano nei reparti baratte e xantogenato. Al di fuori di questo nessuno veniva riconosciuto come tale, anche se nei registri medici si ritrovano insomma documenti dal policlinico, dei medici che riconoscevano uno stato di malattia. Queste persone poi non ricevevano nessun tipo di indennizzo perché non rientravano insomma nella legge. La legge del 38 estende l'indennizzo fino al primo essiccamento, quindi non estende a tutti i rami della produzione. Ciò avverrà soltanto nel 1955, quando la fabbrica sarà già chiusa, per cui per queste persone insomma non si verificherà nessun tipo di riconoscimento neanche della malattia. E il ruolo, insomma, quello che si veniva a creare non era neanche un riconoscimento immediato di questo stato di salute, ma era uno spostamento dai reparti sotto consiglio medico. C'è chi lavorava a stretto contatto con i reparti chimici, veniva spostato insomma anche nei reparti candeggio, e non è che lì insomma il solfuro di carbonio, no, ma al di là degli acidi che sbiancavano la sostanza, c'erano anche gli impianti di aereazione della fabbrica che erroneamente portavano tutti i vapori nell'aria e quindi spargevano la sostanza in tutto il quartiere praticamente. Anche gli altri rami della produzione non erano esenti da questa sostanza. E ho analizzato i casi di alcuni operai, nello specifico di uno che ha lavorato 26 anni in fabbrica partendo da dal reparto chimico, andando a finire dopo 26 anni con la pulizia del piazzale. Verrà licenziato senza nessun riconoscimento di indennizzo della malattia, quindi licenziato con intossicazione cronica da solfuro di carbonio dopo 26 anni di servizio all'interno di questa fabbrica. E questo è uno dei tanti casi, ma ci sono mille storie differenti rispetto al trattamento della malattia e della vita all'interno della fabbrica. Ci sono alcune categorie che non vengono proprio prese in considerazione, come le donne. Le donne lavoravano prettamente nei reparti tessili, poi successivamente anche nel candeggio, però non lavoravano nei reparti chimici. Le donne non venivano proprio riconosciute come tali, sia per un pregiudizio medico. Il solfurio di carbonio portava problemi al sistema nervoso centrale, per cui molti di loro, alcuni operai, andavano, insomma, avevano problemi psichici, avevano allucinazioni e cose del genere. Ci sono anche racconti molto dettagliati di queste cose. Per quanto riguarda le donne, per un pregiudizio culturale e medico, questa cosa era sempre attribuita a un problema di isteria, insomma, è un pregiudizio culturale questo. E oltretutto le donne, non lavorando nei reparti coperti dall'assicurazione, non potevano neanche essere valutate come tali, quindi non erano proprio prese in considerazione. Ciononostante, la mia curiosità mi ha spinto oltre e sono andato a ricercarmi un po' di quali erano i problemi che avevano queste donne, e molte di loro portavano problemi alla vista. Ho fatto un elenco di 73 nomi di donne che avevano problemi occhio destro, sinistro, perché andando a fare una ricerca sugli studi del 1928-30 di Rannelletti e altri che si sono interessati ai casi di solfocarbonismo, il solfuro di carbonio provoca anche danni all'occhio, quindi un aspetto che non è stato mai preso in considerazione. Però i danni erano molteplici, non erano solo quelli psichici, ma c'erano nevriti, blocchi degli arti e tante altre cose. E questa quindi è una categoria che è stata esclusa praticamente da qualsiasi attenzione. Altri invece avevano un altro percorso, che erano quelli che l'intossicazione da solfuro di carbonio li portava ad avere, come ho già detto, problemi psichici e manifestazioni abbastanza forti, alterate. C'è chi pensava di volersi, poi ricordiamoci sempre in epoca fascista, con la propaganda fascista, chi voleva immolarsi per la patria e dava segni di allucinazione, che era un superuomo, era fortissimo, veniva poi fermato dalla polizia, portato al policlinico, valutazione del policlinico, e molti di loro venivano portati negli ospedali psichiatrici. Per alcuni di loro sono riuscito a rintracciare la loro presenza a Santa Maria della Pietà a Montemario. E quindi, riprendendo i concetti detti prima di istituzione totale, per alcuni di loro da un'istituzione totale se ne passava un'altra, che era anche peggio, quella del manicomio. Anche se a onor del vero, per esempio, gli operai da me presi in considerazione restavano soltanto in osservazione per un mese, non avevano un percorso prolungato all'interno del Santa Maria della Pietà, proprio perché come svanivano, come c'era allontanamento dalla sostanza chimica, svanivano gli effetti del solfuro di carbonio. Quello che si viene a creare all'interno di questa situazione è proprio una messa in discussione dei concetti di salute, malattia e della stessa vita, e in quanto volevo riprendere un concetto basaiano, che è quello della normalità. Da cosa è data la normalità all'interno di un'ottica capitalistica? È nata dal rapporto tra salute ed efficienza. Foucault dice: quando siamo in grado di produrre qualsiasi tipo o produzione, di qualsiasi tipo di produzione umana di merci, qualsiasi cosa io sono in grado di ricambiare in termini di necessità produttiva. E cos'è che dice Basaglia che ci rende in uno stato di salute? Cosa mi rende in salute e che posso dimostrare che io sia in salute, la mia attività fisica, il mio produrre, e quindi il lavorare. Paradossalmente per queste persone il lavorare invece che dargli dimostrazione di uno stato di salute li rendeva malati, e quindi voglio dire, insomma, era un altro paradosso che si trovavano a vivere questi operai e questi operai all'interno della viscosa. E, insomma, termino con una piccola riflessione, utilizzando sempre, voglio dire, categorie antropologiche rispetto al diritto alla salute. Il diritto alla salute non veniva considerato in quanto diritto politico, la vita politica delle persone non veniva considerata quanto vita politica, ma si veniva l'indennizzo e il riconoscimento quindi del diritto alla salute veniva dato dal momento in cui veniva riscontrata dai medici uno stato di malattia. E quindi uno stato fisico, uno stato biologico. E Agamben utilizza dei termini greci per riferirsi alla vita biologica e alla vita politica. La vita biologica viene chiamata zoe, quella politica bios. Dice, dal momento in cui queste cose vengono a sovrapporre, siamo tutti quanti, e lui utilizza un'espressione che homini sacer, tutti fuori dal diritto costituzionale, siamo tutti quanti vulnerabili. E in questo caso alla snia viscosa era un riconoscimento di un dato biologico che portava alla possibilità di avvalersi di un diritto politico. E qui concludo. Adesso si è fatto l'una e mezza, era previsto in teoria uno spazio per il dibattito e il confronto su queste cose.